si può fare. Cronache da un paese migliore di Alessio Maurizi. Eccoci qua, buongiorno cari ascoltatori, ben ritrovati in diretta con Si può fare, stiamo insieme fino alle 10, cominciamo tra poco con un'occhiata ai giornali di oggi, con una rassegna stampa che ci porterà fino al giornale radio delle 8 e poi cominceremo con i nostri approfondimenti sempre a caccia di buone notizie. Oggi cominciamo dall'accordo raggiunto tra l'Unione Europea, tra l'Europa quindi e gli Stati Uniti sulla protezione dei nostri dati personali sui server dei grandi gruppi americani, perché c'era un vecchio accordo Safe Harbor che non andava più bene, perché sostanzialmente le autorità americane potevano accedere ai nostri dati sensibili sui server dei grandi gruppi come Facebook, Google, basta fare questi due nomi per capire di cosa stiamo parlando. E quindi adesso c'è un nuovo accordo che dovrebbe tutelare di più i cittadini e la privacy europea. Cercheremo di capire di cosa si tratta e se davvero è una buona notizia per tutti noi e per la nostra privacy. Questo dopo le 8, adesso andiamo a dare un'occhiata ai giornali di oggi. Vi ricordo i nostri contatti se volete interagire con noi: la pagina Facebook Si può fare trattino Radio 24, l'account Twitter chiocciola Si può fare 24, il mio personale account è chiocciola Ale Maurizi. Vai! E allora, giornali di oggi che hanno tutti un titolo almeno sulla vicenda di Giulio Regeni, il ragazzo ucciso in Egitto, ricercatore italiano, la cui salma rientrerà oggi, proprio oggi, in Italia. E c'è un gruppo di investigatori italiani che si sono appena recati al Cairo per fare luce su questa vicenda. Poi vabbè, anche titoli anche sull'accordo, sull'annuncio storico di questo incontro che ci sarà tra il Papa Francesco e il patriarca della Chiesa Ortodossa di Mosca. E insomma, un po' di notizie dal mondo, sicuramente anche l'afflusso di profughi alla frontiera tra la Siria e la Turchia. Cominciamo con il Corriere della Sera, che titola: a proposito del ricercatore italiano ucciso in Egitto, Giulio torturato per le sue fonti, volevano la rete dei contatti. L'ambasciatore italiano parla e dice: ho visto io le ferite e le bruciature. E già questo è un elemento che fa riflettere sulla possibilità che sia stato vittima della criminalità comune, perché una tortura è difficilmente spiegabile da questo punto di vista. Volevano scoprire chi gli avesse passato le informazioni contenute negli articoli pubblicati sotto pseudonimo dall'agenzia Nena News e poi ripresi dal Manifesto. Per questo è stato sottoposto a brutali interrogatori e si è viziato a morte, scrive Fiorella Sarzanini sul Corriere. È la convinzione degli investigatori che cercano la verità sulla fine dello studente italiano, 28 anni, trovato morto in un fosso sulla strada che va dal Cairo ad Alessandria. L'ambasciatore italiano ad Alessandria, Maurizio Massari, dice: la notte all'obitorio del Cairo ho visto i segni delle sevizie sul corpo martoriato di Giulio. E poi la questione dei depistaggi, perché ieri sono circolate ipotesi che vengono al momento assolutamente definite come depistaggi. La notizia circolata, poi negata categoricamente dai servizi segreti italiani, che Regeni fosse un collaboratore o addirittura un agente dell'Agenzia per la Sicurezza Estera. Sempre su questo argomento, su Repubblica, il titolo: Cairo, le ultime ore di Giulio, preso in piazza dalla polizia. Repubblica che scrive il retroscena: il team inviato in Egitto non crede all'ipotesi della criminalità comune, come dicevamo poco fa. Ancora, Giulio Regeni non è uno studente qualunque, è uno studioso di movimenti di opposizione in Egitto, ha contatti con i nemici del regime. in un contesto autoritario e repressivo come quello dell'Egitto dell'ex generale al-Sisi, il semplice fatto che vi siano iniziative popolari e spontanee che rompono il muro della paura rappresenta di per sé una spinta importante per il cambiamento. Questa frase virgolettata potrebbe, che ha scritto Giulio, potrebbe essere il movente della sua uccisione. Perché non si immagina al momento che si possa trattare di un fatto di criminalità comune, ma di qualcos'altro? Tre motivi citati in questo articolo di Carlo Bonini. Che motivo avrebbero avuto i banditi di torturarlo in quel modo? Bruciature di sigarette, un orecchio mozzato, decine di fratture su tutto il corpo, al cranio. Secondo motivo, se è vero come è vero che Giulio muore diversi giorni prima del ritrovamento del suo cadavere, probabilmente il giorno stesso della sua scomparsa o comunque nelle ore immediatamente successive, per quale motivo i due criminali di strada che lo avrebbero ucciso hanno custodito il corpo per così tanto tempo prima di liberarsene? Altra domanda a cui è difficile dare una risposta in quella ipotesi. Terza domanda, terzo punto interrogativo che non collima con l'ipotesi di un di un'azione di banditi comuni, il luogo del ritrovamento del cadavere. Si tratta di una strada molto frequentata, dunque molto rischiosa per qualcuno che se ne va in giro con un morto nel bagagliaio dell'auto da scaricare sul ciglio della strada, a meno che le persone di cui si stia parlando non abbiano nulla a che fare con la criminalità, ma molto a che fare con gli apparati di sicurezza, cioè gente che è andata in giro con il cadavere di Giulio Regeni andandolo a deporre in questo fossato lungo questa strada molto trafficata, a quanto pare che l'avrebbero fatto abbastanza indisturbati in quanto, diciamo, membri per esempio degli apparati di sicurezza dell'Egitto. Andiamo anche sul manifesto che oggi con l'editoriale della direttrice Norma Rangeri torna su questo. Inevitabilmente non è giusto il titolo con la foto di Giulio Regeni. La salma di Giulio arriva oggi a Roma con i familiari. L'autopsia dei medici italiani potrebbe rivelare nuovi particolari sull'orribile morte del giovane ricercatore. La polizia egiziana riferisce di aver arrestato due persone, ma esclude il movente terroristico e politico. Pesa sul governo italiano la responsabilità di non accontentarsi di verità di comodo del dittatore al-Sisi. È la tesi anche del Fatto Quotidiano, che titola così: delitto Regeni, l'Egitto in sabbia. E l'Italia è prigioniera di al-Sisi. 5 miliardi di interscambio tra l'Italia e l'Egitto, sarebbe questa, diciamo, la cifra, la pietra dello scandalo in qualche modo, così come scrive anche il Corriere. Ma torniamo sul manifesto, perché leggiamo alcuni passaggi dell'editoriale di Norma Rangeri, che ha fatto scrivere sul suo quotidiano Giulio. Tutto il manifesto in questo momento è accanto alla famiglia di Giulio Regeni per condividere con i genitori il dolore di chi ha perso un figlio, un ragazzo che li rendeva orgogliosi perché studiava e univa l'impegno civile al suo lavoro di ricercatore, una giovane persona curiosa del mondo, attenta ai problemi sociali in un paese dove il dissenso non solo non viene tollerato, ma è selvaggiamente represso con il carcere, le sparizioni e le uccisioni. Della sua profonda passione e della forte partecipazione alle vicende di quel paese, del resto piena testimonianza l'articolo che ieri abbiamo pubblicato sul nostro sito, poi sul giornale. È il racconto preciso e appassionato di una assemblea sindacale. Giulio spiega le difficoltà dei lavoratori del settore pubblico, la mancanza di democrazia nell'organizzazione del sindacato egiziano, la fatica di opporsi al programma di privatizzazioni iniziato ai tempi di Mubarak in un paese ormai martoriato dalla repressione di un regime sanguinario. Nel suo reportage si approfondisce l'analisi sociale, se ne ricava il giudizio politico, qua è un punto abbastanza importante. Con la consapevolezza che tutto, libertà, lavoro, diritti, viene oggi giustificato in quel paese dalla guerra al terrorismo. Cioè, in nome della guerra al terrorismo, si stanno calpestando i diritti in Egitto. E Giulio, che evidentemente voleva raccontare questo spaccato di mondo, ci ha provato, ma ha toccato un tasto, evidentemente un nervo troppo scoperto in quel paese. Poi, che dire, arriviamo alla conclusione. Donna Marangeri, oggi il suo corpo viene restituito al nostro paese, mentre cominciano a emergere particolari sulle torture subite, il dittatore egiziano si mostra cortese e comprensivo verso il governo italiano, messo nel grave imbarazzo di ritrovarsi il cadavere di un giovane italiano mentre discute di affari con il nostro ministro dello sviluppo economico. L'incidente va archiviato. Qua è il punto, diciamo, politico. L'incidente va archiviato, magari con la punizione esemplare di qualche poliziotto. Il caso Regeni va dunque risolto il più rapidamente possibile, così da riprendere presto le normali, anzi le privilegiate relazioni tra Italia e Egitto, come ha detto ieri anche Alfano, che ha detto queste buone relazioni tra Italia e Egitto saranno un viatico per risolvere questo caso. Secondo l'opinione di Norma Rangeli sul Manifesto, no, perché invece in nome di queste buone relazioni cercherà di insabbiare presto, prestissimo. Conclusione: un punto fermo nella nostra politica internazionale, una corsia preferenziale sullo scacchiere medio orientale, specialmente in vista di probabili ravvicinati interventi militari in Libia con il dittatore al-Sisi schierato dalla parte giusta, cioè la nostra. Si chiama Realpolitik. È questo il commento sul Manifesto di oggi, Manifesto che ha fatto scrivere Giulio, e questi articoli sarebbero una delle cause, forse la causa, che lo hanno portato alla morte in Egitto. Andiamo, c'è un'altra piccolissima notizia che riguarda l'estero, ed è sono le trattative tra i socialisti e Podemos in Spagna, perché da poche ore è stato dato l'incarico di formare il nuovo governo a Sánchez, il leader dei socialisti. È durato ieri più di un'ora l'incontro tra il leader Sánchez e Pablo Iglesias di Podemos, quello col codino, per la formazione del nuovo governo spagnolo, ma al termine delle due parti sono apparse molto distanti ancora. Sánchez ha respinto l'ipotesi di un negoziato esclusivo con Podemos, mentre Iglesias non vuole un accordo che comprenda anche l'altro partito, diciamo, movimentista, Ciudadanos di Albert Rivera. Ci fermiamo un attimo per il traffico, torniamo tra pochissimo. Progetto Fuoco, Fiera di Verona, 24-28 febbraio, progettofuoco.it. Vi presenta... eccoci qua, allora di nuovo buongiorno da Alessio Maurizi, di nuovo sui giornali di oggi con titoli, abbiamo detto, in gran parte dedicati alla vicenda di Giulio Regeni. Il corpo rientrerà oggi in Italia, ci sarà un'autopsia che probabilmente potrà contribuire a dire una parola, insomma, di verità, per capire intanto anche l'entità di queste molestie, di questi maltrattamenti, scusate, o addirittura al limite della tortura, come è stato detto in prima istanza anche dall'ambasciatore italiano in Egitto, che ha confermato segni evidenti di brutalità, di brutali violenze sul corpo di Giulio. E che dire, adesso invece andiamo su quest'altra notizia importante, che è il secondo titolo di Repubblica: svolta storica, Francesco vede il patriarca russo. L'incontro tra il Papa e il capo ortodosso avverrà il 12 febbraio all'aeroporto dell'Havana, Cuba, che ancora una volta evidentemente intreccia in qualche modo i destini di questo Papa, di Papa Francesco. Vediamo come la notizia viene data su Avvenire. Naturalmente il quotidiano di ispirazione cattolica, così recita: sulla via dell'unità si vedranno il Papa e il Patriarca di Mosca Kirill venerdì 12 a Cuba, un incontro senza precedenti. Papa Francesco e il Patriarca russo ortodosso si danno appuntamento per uno storico incontro il 12 febbraio a Cuba. Hanno scelto la concomitanza dei loro viaggi in America Latina per compiere un gesto che non ha precedenti nella storia e che rappresenta un passo importante nel cammino per l'ecumenismo. Un colloquio di due ore e poi la firma di una dichiarazione congiunta. Soddisfazione è stata espressa anche dal patriarca ecumenico di Costantinopoli, Bartolomeo I. E va bene. Invece, su un altro tema che ha tenuto tutti molto attenti nelle ultime settimane è quello delle unioni civili, perché insomma si sta il governo Renzi sta faticosamente tentando di trovare una mediazione, perché diciamolo chiaramente, i voti per approvare questo provvedimento del DDL Cirinnà in Parlamento ci sarebbero quelli del Partito Democratico sommati ai voti in libera uscita, soprattutto quelli del Movimento 5 Stelle in libera uscita, magari dietro una libertà di coscienza, dietro un voto segreto. Potrebbero arrivare dei voti anche dal centrodestra. Sappiamo che tra i figli di Forza Italia ci sono molti sostenitori, Mara Carfagna ed altri, della legge sulle unioni civili, ma soprattutto i voti del Movimento 5 Stelle. Però governo Renzi in particolare è arrivato a un punto in cui non sa più da che parte andare, se andare dietro a questa legge, a questa esigenza di tutelare i diritti delle coppie omosessuali, che anche stando ai sondaggi una maggioranza magari risicata ma insomma sostanziale degli italiani, poco più del 50%, è disposta a sostenere, oppure se tenere insieme la maggioranza, chissà per quanto tempo ancora dovrà governare insieme ad Alfano, ai centristi, forse ancora per un anno, forse ancora per due, quindi uno strappo a questo punto potrebbe essere letale, potrebbe essere difficile da gestire. Ieri alcuni membri dell'UDC hanno sostenuto che qualora dovesse essere approvata questa legge con la stepchild adoption, questo è il punto, ormai l'abbiamo capito, della discordia, se ne uscirebbero dalla maggioranza. Allora ecco che spunta all'orizzonte una ipotesi di mediazione. Dal PD, scrive La Repubblica, un'offensiva contro l'utero in affitto, dopo la minaccia dell'UDC, mozione della Finocchiaro per mediare con i cattolici. E mentre il Consiglio d'Europa ribadisce giusta la legge che state per fare in Italia, anche con all'interno la questione delle adozioni. Allora, leggiamo di cosa si tratta. Scrive Repubblica: non solo le senatrici Cattodem, ma anche Anna Finocchiaro, presidente della Commissione Affari Costituzionali, ex capogruppo dei senatori del PD, una militanza politica nel PC prima e NDS poi, dirà la sua contro l'utero in affitto. Probabilmente proporrà una mozione, non è ancora nero su bianco, ma il Partito Democratico ha in calendario un incontro lunedì per discutere della questione che i cattolici e una parte delle femministe hanno posto sul tavolo della discussione sulle unioni civili. Cioè c'è questa strana, diciamo, alleanza tra i cattolici, i centristi, anche all'interno del Partito Democratico, l'ala cattolica, e le donne di provenienza femminista, che vedono la pratica dell'utero in affitto, cioè della possibilità per un uomo di ottenere un figlio, si può fare per esempio in Canada attraverso proprio la gestazione altrui, cioè una donna che si prende in carico la gravidanza e poi il figlio viene consegnato ai termini di 9 mesi al signore che ci ha messo il seme. Ecco che questa questione, insomma, sta un po' esplodendo, è rimasta sotto traccia per un po'. Adesso questa pratica, che sicuramente pone delle grandi discussioni a chiunque, se non ci fosse stata la stepchild adoption e la questione dell'utero in affitto, la legge sulle unioni civili sarebbe già probabilmente passata, perché su questo, ripetiamo, sono sicuramente molte meno criticità e anzi forse nessun tipo di opposizione sostanziale, almeno in una maggioranza parlamentare. Invece questo tema sta venendo fuori. Allora, cosa si va profilando? La legge sulle unioni civili passerà, ma sarà accompagnata da una mozione, oppure, come vorrebbero i più intransigenti, da un subemendamento inserito all'articolo 5 che richiami e rafforzi il divieto di maternità surrogata, proprio l'utero in affitto. Anna Finocchiaro è favorevole alla legge e anche alla stepchild adoption, però è altresì convinta che l'utero in affitto sia un uso irrispettoso del corpo della donna. Quindi insomma potrebbe esserci anche una norma con lo stepchild adoption, cioè la possibilità di adottare i figliastri, i figli naturali di uno dei due partner, ma con una norma che rafforzi i limiti contro la pratica che consente di arrivare fino a quel punto, cioè di avere un figlio naturale da un uomo che non si è accoppiato con una donna ma l'ha avuto tramite utero in affitto. Poi insomma questo sembra essere il compromesso che si va delineando. Può essere utile chiudere questa piccola pagina ricordando che molti dei paesi dove sono consentite e regolamentate le unioni civili non hanno però una norma come quella dello stepchild adoption, cioè sono due cose separate in qualche modo e forse anche separabili. Allora, andiamo su qualche altro titolo di altri giornali per vedere di cosa si occupano. Per esempio, vediamo se ci arrivo, il giornale, vergogna capitale, la verità sulla nuova Affittopoli, cresce lo scandalo sulle case a prezzi stracciati, la politica fa finta di niente e poi ci tassa. E questo... Ah, poi lo strano triangolo dietro al super aereo del Premier, e questa è una cosa di cui si occupa anche il Fatto Quotidiano, che titola... il mistero dell'Air Force di Renzi. Quanti milioni costa il leasing? Triangolazione Ministero della Difesa all'Italia Etihad nel mirino, perché c'è uno strano contratto per il nuovo gigantesco aereo presidenziale. Il Ministero della Difesa lo affitta da Alitalia, che Alitalia lo affitta dal suo azionista Etihad. Il governo poteva comprarlo e invece lo prende in leasing, cioè un affitto lungo nel tempo, diciamo così, un leasing senza gara dagli arabi di Etihad, che però hanno dovuto personalizzarlo con poltrone in pelle, moquette, stanze da letto e tecnologia. Ma il costo è segreto, trattandosi di un affare di Stato, in qualche modo, come tante cose che fanno capo a Palazzo Chigi, il costo di questo aereo è segreto. Insomma, il sospetto è che tramite questa triangolazione i costi siano stati fatti un po' lievitare a spese ovviamente del contribuente. Poi volevo trovare Libero, adesso non lo trovo. Libero, dov'è finito? Eccolo qua, ecco Libero che titola su i politici che votano contro i risparmiatori. I nostri europarlamentari approvano la mozione Capestro su BOT e BTP che rende proibitivo per gli istituti di credito finanziare il debito pubblico italiano ed estende il bail-in ai titoli di Stato. Il Sole invece, il Sole 24 Ore, titola sui dati sul lavoro americano che spaventano le borse, incertezza su nuovi rialzi dei tassi, Piazza Affari perde il 2,13%, succede che la disoccupazione americana ieri è scesa ai livelli pre-crisi al 4,9%, e fin qua una buona notizia, ma il numero degli occupati è salito meno del previsto e di qui i timori sull'andamento dell'economia. Direi che dobbiamo chiudere, giusto? Chiedo conferma in regia. Un minuto abbiamo ancora. Allora sì, c'è spazio ancora per una curiosità, che è questa. Silvio Berlusconi avrebbe fatto il nome di una sua possibile erede in politica, meglio una donna. Ma lei, Lisa Ferrarini, intervistata, dice sì, io però preferisco Renzi. È questo quello che sarebbe successo. A una cena con gli eurodeputati di Forza Italia a Palazzo Grazioli, Berlusconi avrebbe raccontato che il nome di Lisa Ferrarini gli sarebbe stato fatto addirittura dal presidente di Confindustria Giorgio Squinzi. È una donna brava e capace, lui vorrebbe candidarla, ma lei intervistata dice no, ringrazio Berlusconi del pensiero, della considerazione nei miei confronti, ma io sto bene dove sto. Invece se la stessa domanda venisse da Renzi, potrei valutare. Come Renzi? Domanda all'intervistatore della stampa. No, scusi, stavo scherzando, risponde la Ferrarini, che comunque non insomma, è interessata alla candidatura con Berlusconi. E così abbiamo conosciuto anche un piccolo dietro le quinte della politica italiana. Concludiamo ricordando che sono le primarie per il centro-sinistra a Milano. Il favorito è Sala, scrive la stampa, già pensa al dopo, alle elezioni, temo Parisi. Ci fermiamo, c'è il GR, torniamo dopo, apriamo anche il numero verde 800 24 0024, parliamo di dati personali, dopo. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Uptown funk you up. Uptown funk you up. Cause Uptown funk don't give it to you. Cause Uptown funk don't give it to you. Don't believe me, just watch. Eccoci qua, buongiorno da Alessio Maurizi. E da Carlo Gabardini, buongiorno e buon sabato a tutti. Cari ascoltatori, ben ritrovati. 800 24 00 24. È partito il fischio in cuffia. Ah, pensavo il fischio d'inizio, il fischio d'inizio del nostro weekend. Vi aspettiamo numerosi per stare insieme a noi fino alle 10 di questa mattina per commentare le notizie, per raccontarci le vostre buone notizie e anche per giocare con noi. Vogliamo fare un piccolo bilancio di come sono questi primi giorni del divieto che sta cambiando le abitudini degli italiani, soprattutto dei fumatori. O forse no, ovvero questo divieto di buttare per terra le cicche. Siamo molto curiosi di sapere com'è andata, perché noi siamo favorevolissimi a queste norme contro l'inciviltà. Multa fino a 300 euro, se non ricordo male. Sì, no, favorevole assolutamente. Io devo ammettere che sono un fortissimo fumatore, quindi sono colpevole, e da molti anni in realtà cerco di non buttare le cicche in terra. E di solito faccio così, che cerco di spegnere la sigaretta dove quindi, capita, faccio cadere la cenere, perché quella è ancora biodegradabile, poi vado in cerca di una spazzatura pubblica dove buttare la cicca, oppure ho i posacenerini, quelli portatili. Quindi la cosa che vi chiediamo è: come avete fatto voi in questa settimana? Dove l'avete buttata? O il vostro vicino dove l'ha buttato? Oppure anche se invece vi siete accorti, come qualche giornalista e qualche giornale ha documentato, che in realtà nei centri di alcune, di molte città forse, non è cambiato granché. Cioè, c'è la norma che prevede una multa di 300 euro per chi butta la cicca in terra, ma ci sono ancora le cicche in terra semplicemente perché non c'è nessuno che riesce a farla rispettare, o forse... È difficile far rispettare anche il posacenere, la persona in quel momento lì, non lo so. C'è stato un servizio in televisione in questi giorni dove c'era un vigile che stava buttando per terra una cicca, e gli ha detto: mi scusi, ma l'intervistatore gli ha detto: mi scusi, ma da oggi non si potrebbe? E lui ha fatto spallucce come per dire: sì, vabbè, sto lavorando. E ha risposto al telefono dicendo: ciao mamma, scusami. Quindi in effetti forse non stava nemmeno molto lavorando. È arrivato il primo messaggio a 3422386666, molto interlocutorio, che dice così: io fumo il sigaro. È interessante, perché il sigaro sigaro in teoria bisognerebbe poterlo buttare per terra. Il sigaro è tutto biodegradabile, è tutto tabacco. Anche questo sarebbe interessante capirlo e valutarlo. Quindi, cari ascoltatori, 800 24 00 24, vi aspettiamo. Il racconto più originale, più interessante, quello che ci convincerà di più. Si porta a casa anche oggi due biglietti e il catalogo della mostra di Matisse, niente proprio di meno che. Palazzo Chianese a Torino, una delle mostre organizzate dal gruppo 24 ore. 800 24 00 24, vi aspettiamo. Tra poco invece cominciamo, anzi subito, parlando della tutela dei dati personali. Mamma mia. Questa Privacy di Michael Jackson, e vi ricordo che tutte le nostre scelte musicali le ritrovate sul sito di Radio 24, la pagina Si può fare, per ogni puntata la nostra playlist. Parliamo proprio di questo, della tutela della privacy, cioè i nostri dati sensibili, soprattutto per quanto riguarda la navigazione su internet, quindi siti che visitiamo, i dati che inseriamo, eccetera eccetera, perché la buona notizia è questa: che è stato raggiunto un accordo di massima tra gli Stati Uniti e l'Unione Europea per gestire che cosa? Il trasferimento di questi dati dai server, diciamo, in Europa a quelli in America, perché come sapete Google, Facebook sono tutti da quella parte là dell'Atlantico. E allora, dopo che ad ottobre la Corte Europea di Giustizia aveva considerato non sufficientemente protettivo per i cittadini europei la vecchia intesa Safe Harbor, si chiamava così, che risaliva al 2000, è stato fatto un nuovo accordo che dovrebbe tutelare di più i cittadini europei. Perché? Perché in America sostanzialmente le autorità di questi dati fanno un po' quello che vogliono. Mentre da noi no, almeno ci dicono che no. Esatto. La parte meno buona di questa notizia è che i dettagli di questo accordo non sono ancora noti, quindi siamo verso lo scoop. È un grande piacere avere con noi Giuseppe Busia, segretario generale dell'autorità garante per la protezione dei dati personali. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Allora, intanto di quali dati stiamo parlando? Cerchiamo di fare chiarezza sui termini. Stiamo parlando, dico bene se parlo dei siti visitati, il traffico? In realtà, anche senza rendercene conto, un po' tutti i dati che noi crediamo, ci illudiamo di avere sul tablet, sul telefonino, sul nostro computer, sono sempre più conservati altrove, dalle rubriche alla posta elettronica, alla navigazione sul web. Quindi noi tutto, crediamo veramente di salvarli tutto sull'apparecchietto che abbiamo in tasca e invece sono su un server messo da qualche parte. Quando ci serviamo... Nella famosa nuvola. Sono sulla nuvola, sul cloud. Esatto. Quindi, crediamo di controllarli, ne abbiamo perso il controllo. Molte volte sono su server dispersi chissà dove, e siccome ci serviamo in gran parte di servizi offerti dai grandi giganti del web, che sono il grosso americani, ma ci sono anche altri che sono altrove, noi abbiamo la necessità di controllare, di sapere che questi dati vengono usati in modo corretto, in particolare non ci sia un accesso generalizzato, non vengano dati in mani non sicure e via dicendo. Quindi il problema riguarda tutti noi, riguarda quando noi cerchiamo su un motore di ricerca come Google, quando usiamo Facebook, per citare i più grandi, ma riguarda anche tanti servizi offerti dagli italiani, perché appunto l'illusione di avere la nostra posta elettronica sul telefonino, sul tablet o sul computer c'è, ma non è reale. In realtà i nostri dati sono in giro. Non sappiamo allora, quindi, bene dove sono. Andando per ordine, i dati di navigazione, i dati della nostra posta elettronica, e i dati personali, le password che magari uno si scrive in qualche file e lo tiene lì da qualche parte, quindi tutta questa serie di dati, ecco, stiamo parlando di questo. Il nuovo accordo tra gli Stati Uniti e l'Unione Europea è stato presentato come migliorativo, perché sostanzialmente la legge americana che consentiva alle autorità statunitensi di accedere ai nostri dati liberamente adesso non dovrebbe essere più così. Questo? Cioè, sarà più difficile? È utile usare il condizionale, perché adesso abbiamo solo un accordo politico, non abbiamo un elemento scritto. Questa settimana c'è stata la riunione delle autorità europee di protezione dei dati, che avevano fissato una scadenza dicendo: guardate, possiamo attendere dopo la sentenza di ottobre che veniva ricordata, al massimo l'inizio di febbraio. La Commissione europea e l'amministrazione degli Stati Uniti hanno trovato questo accordo politico, che però non è ancora un testo scritto. Le autorità, i garanti europei hanno chiesto: portateci questo testo scritto. La commissaria per la giustizia è venuta in audizione alla riunione dei garanti europei, ha illustrato a grandi linee questo accordo, però come dire, è tutto da verificare. Cioè, abbiamo detto questo è l'accordo, il macro accordo, adesso poi dovremo scrivere le clausole, che poi sono la cosa fondamentale, perché insomma, come dire, il diavolo sta sempre nei dettagli, no? Assolutamente sì. Per ora si sa, come dire, è un successo che gli Stati Uniti fino a poco tempo fa erano restii anche a discutere, e grazie a questo prima la sentenza e poi questa scadenza si siano decisi a sedersi al tavolo. Sappiamo che ci sono alcune garanzie, dobbiamo vedere diciamo le clausole scritte per capire se sono sufficienti. Ecco, facciamo allora un piccolo passo indietro. Come funzionava prima? Cioè, i nostri dati stavano sui server di Google, di Facebook in America, e le autorità americane, quando volevano, senza grossi problemi e autorizzazioni, potevano andare a fare, diciamo, controllare quello che fa Carlo Gabardini o Alessio Maurizi e via dicendo. Era così? C'erano, e come emerso dal Datagate, un controllo soprattutto a fini di sicurezza massivo, generalizzato. Questo dal punto di vista dei nostri principi di protezione dati, ma dei principi di civiltà, non è accettabile. È accettabile che quando una persona è sospettata di terrorismo o si devono fare delle indagini particolari ci siano anche delle intercettazioni pervasive. Non è accettabile che tutti noi finiamo per essere sospettati e quindi che questo controllo sia massivo e tutti noi e le nostre comunicazioni, le nostre mail, i nostri messaggi e via dicendo possano essere oggetto di un controllo così massivo. Questo è possibile, era possibile attraverso e sulla base della legislazione americana e questo non è compatibile con un sistema di libertà al quale teniamo e dobbiamo tenere. Perché anche da noi in Europa o in Italia abbiamo sentito di informazioni che sono circolate, di scandali da questo punto di vista. Però si trattava di deviazioni rispetto alla norma, cioè di atti illeciti, no? Quando il controllo diventa generalizzato è chiaramente un atto illecito, perché anche qui bisogna, è un altro equivoco, troppo spesso si dice bilanciamo privacy, sicurezza, eccetera, eccetera. In realtà la normativa sulla privacy consente le indagini di polizia, consente e anzi aiuta a evitare che ci sia una forma di criminalizzazione, come si occupa di protezione dati, quindi protezione delle banche dati, evita grandi forme di criminalità, quali sono quelle della cybercrime, il crimine che distruggendo, attaccando le grandi banche dati finisce per minare la nostra vita, perché la nostra vita è sempre più oggi sul web, è legata al web, pensiamo a cosa deve far saltare i sistemi di trasporti o grandi banche dati pubbliche come quella dell'Agenzia delle Entrate, dell'INPS e via dicendo. Quindi noi abbiamo necessità di proteggere queste banche dati e questo lo fa la privacy, abbiamo la necessità di consentire alla polizia, per alcuni soggetti che sono sospettabili, di controllarli in modo pervasivo e questo è già possibile e quindi l'equivoco che troppo facilmente è stato diffuso, per cui dopo gli attentati tragici di Parigi si è detto abbiamo bisogno di più dati. In realtà, purtroppo, i fatti hanno dimostrato che i soggetti che hanno compiuto gli attentatori di Parigi erano già soggetti pedinati, intercettati, condannati anche qualcuno per fatti di terrorismo e purtroppo la polizia non era riuscita a capire che quei soggetti pur sospettati erano. Quindi non c'è bisogno ai controlli di più dati, bisogna poi far seguire c'è bisogno di analisi, delle azioni non c'è bisogno concrete. Di maggiore quantità di dati, c'è bisogno di qualità dei dati. Senta Busia, ma stanno costruendo un server proprio a fianco a lei, perché noi sentiamo un rumore come di... Oppure è su un elicottero e sta andando nella nuvola, nella cloud. No, io non sento il rumore, quindi potrebbe essere vicino a voi, ma il problema vero è che non sappiamo dove sono e quindi abbiamo bisogno che è stato chiarito, siamo noi qua davanti alla sede del Sole 24 ore, stanno trapanando. Infatti siamo un martello pneumatico, siamo noi, perfetto. E quindi sarà così che per tutta la mattina forse. Le posso chiedere una cosa, nel senso che l'accordo mi sembra una buona notizia ed è interessante capire quali saranno gli estremi di questo accordo, però io mi chiedo, è credibile che nel momento che negli Stati Uniti stanno facendo un'inchiesta o stanno facendo delle ricerche di qualunque tipo si fermino dicendo ferma, questo deve essere un cittadino europeo, quindi i suoi dati possiamo leggere solo le mail ma non possiamo leggere i numeri di telefono? È credibile che questo accordo venga mantenuto? Guardi, la cosa che deve essere credibile dai due lati dell'oceano è che quando si fanno indagini, non tutti noi si possono fare indagini su alcuni e quindi le possono fare negli Stati Uniti e in Europa e le fanno negli Stati Uniti e in Europa sulla base di soggetti mirati, di sospettati, di target più selezionati. Essere tutti noi intercettati, questo mina la democrazia e la nostra libertà sia in Europa sia negli Stati Uniti. E la partita non è solo fra democrazie avanzate come quelle europee e Stati Uniti, perché queste regole poi dobbiamo applicarle quando i server sono in Cina, quando sono in Russia, quando sono in paesi dove le garanzie sono molto minori. Quindi quello che stiamo riuscendo a fare è fortunatamente far sì che anche negli Stati Uniti, dove c'era maggiore libertà, si capisca che se si trova un accordo fra i due, come si troverà e auspicabilmente si trovi, fra le due sponde dell'Atlantico, poi queste garanzie saranno per tutti e varranno dove e quando i server non saranno in una democrazia liberale. In una democrazia questo è interessante, quindi in realtà non varrà solamente per i cittadini europei. Parliamo di questo, stiamo parlando di Stati Uniti e Unione Europea, però è chiaro che questi principi per il trasferimento di dati saranno uno standard e devono diventare uno standard, e per le democrazie occidentali, Stati Uniti e le democrazie europee, è un vantaggio e un elemento strategico far sì che questo diventi uno standard, perché altrimenti il rischio di server collocati sotto il controllo di stati che non hanno uguali garanzie diventa ancora più alto. Quindi Senta, ma... è una partita essenziale sulla quale giochiamo moltissimo della nostra vita, c'è anche una partita ancora più importante che è quella che dovremo giocare dopo. Ecco Busia, ma è vero che alcuni paesi costringono a, per esempio la Germania a tenere i propri dati in server che sono necessariamente in quel paese, cioè proprio non consentono per esempio a Google o a Facebook di portarsene via questi dati, è possibile questo? Succede? È una riflessione che si sta facendo non tanto per Google, Facebook e gli altri giganti del web che appunto stiamo tentando di regolamentare, e questo avrebbe, questa discussione ha un'influenza, ma soprattutto per esempio per il server della pubblica amministrazione. È una riflessione che dobbiamo fare anche in Italia. Il patrimonio informativo, ricordavo la banca dati dell'INPS, la banca dati dell'Agenzia delle Entrate, ma anche le banche dati dell'Anagrafe, sono un patrimonio strategico del paese. Se attaccate, o quelle su cui girano i trasporti, le ferrovie e via dicendo, il localizzarle nel territorio nazionale dove possiamo averne un controllo, dove possiamo applicare le nostre garanzie, è un'esigenza fondamentale per il paese ed è anche un'opportunità per le nostre imprese, perché dobbiamo cedere questa ricchezza. I dati personali sono anche una ricchezza economica fondamentale, probabilmente la principale adesso, perché dobbiamo con tanta leggerezza cederla altrove quando da noi possiamo avere più garanzie, e dobbiamo avere per queste banche dati strategiche più garanzie. Senta, ma visto che siete stati voi garanti europei, diciamo dei singoli paesi, a spingere per questo accordo, che giudizio dà? Da 0 a 10? Dà una sufficienza a questo accordo? Il giudizio è sospeso, perché per dare un giudizio e dare un voto occorre conoscere i testi, quindi quello che noi abbiamo chiesto è portateci ma i testi. Al momento però, la cornice, diciamo il titolo, che voto dà almeno a questo titolo? No, io ripeto, per dare il giudizio è meglio attendere il testo. Per ora è positivo che ci sia un passo avanti. Quello che possiamo dire è il passo avanti c'è stato, perché qualcosa c'è, è meglio di ieri, vogliamo vederlo, e allora daremo il giudizio. Sicuramente quindi abbiamo fatto un quando, sei meno per quando ci sarà questo testo? Noi abbiamo chiesto, la commissaria si è impegnata a portarlo entro fine mese, all'inizio, quindi all'inizio di marzo ci sarà una nuova riunione per cominciare, per esaminare questo testo e valutare se le garanzie sono sufficienti. Credo che però il processo si concluderà entro il primo semestre, quindi come dire, siamo in una fase ancora di verifica, abbiamo fatto un passo avanti e bisogna essere soddisfatti, e questo è un successo in qualche modo delle autorità che hanno premuto perché questo avvenisse. Vediamo quanto abbiamo ottenuto. Va bene, grazie mille per essere stato con noi. E grazie a voi. Ci dovremo aggiornare su questo. Giuseppe Busia, del Garante della Protezione Appena della arriva il testo, dobbiamo assolutamente chiamarlo, perché non lo capiremo da soli. Benissimo, 800 24 00 24, cari ascoltatori, se volete commentare questa notizia, o se volete giocare con noi per raccontarci come è andata questa prima settimana di divieto di gettare i mozziconi di sigaretta per strada, una norma di civiltà che noi abbiamo accolto con favore, ma ci chiediamo se è veramente efficace, oppure se, come è stato documentato, in realtà nelle città non è cambiato molto, perché continuano ad esserci le cicche in giro. Bisogna anche dare del tempo, insomma. Tempo al tempo. 800 24 0024, torniamo tra un attimo. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Eccoci qua di nuovo, buongiorno cari ascoltatori, da Alessio Maurizi e da Carlo Gabardini, buon sabato. Ben ritrovati. Oh, a me questo Giuseppe Busia è piaciuto, ho capito anch'io come funziona questa protezione dei dati personali, di cosa si tratta. Ma soprattutto ha dato un'ottima notizia, ovvero che nel momento, da quello che ho capito, che nel momento in cui si troverà un accordo, probabilmente quello varrà sia per noi sia per i cittadini americani. Questo mi sembra più interessante, perché sennò ormai nel momento che si parla di internet diventa molto molto difficile capire la provenienza di un dato. Dice, ma questo signore qua dove abita? Abita in un paese in cui c'è l'accordo, non c'è. Invece se questa cosa qua diventa un nuovo standard, per cui anche negli Stati Uniti decidono che su certi dati non si possono controllare, mi sembra un vantaggio. Bisognerà poi vedere appunto gli accordi di questo, cioè i particolari di questo accordo, che saranno molto importanti per capire. C'è chi poi scrive, come per esempio su al nostro SMS al 349-238-6666, ma come con quello che succede, scrive Danilo, nel mondo tra terroristi e pazzi in genere, cosa vi frega della privacy? Io non ho nulla da nascondere, quindi se mi controllano non ho problemi, spero li abbiano i terroristi. È una posizione legittima, anch'io devo dire che no, io non penso così, che siccome ci sono siccome c'è la paura del terrorismo, allora la privacy non esiste più. No, non condivido per niente. No, io quello che condivido del discorso di Danilo è che se serve per essere più sicuri, che le autorità controllino pure quello che devono controllare. Il punto è quello, che controllino quello che devono controllare, sì, non tutto di tutti, perché questo è un po' un'altra cosa, Danilo. Dopo diventiamo tutti ricattabili, tutti osservabili, tutti manipolabili, e questo non, e soprattutto abbiamo una prova, abbiamo una prova che molti dei terroristi in realtà già sapevano benissimo chi fossero, quindi non c'era nessunissimo problema di dati, quindi si ha il sospetto che con la scusa del terrorismo si vogliono controllare altre persone per altri motivi, magari addirittura a fini commerciali e non a fini di sicurezza, perché i dati molte volte ci sono ma non li beccano comunque terroristi, quindi... Abbiamo gli ascoltatori al numero verde. Giancarlo da Torino, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Prego. Allora, appunto da Torino, ero in un bel viale alberato con la macchina, con la mia compagna, e la macchina che era, antecedeva, ha buttato un mozzicone della sigaretta. Allora io al semaforo successivo mi sono avvicinato e così, come per chiedere un'informazione, c'era questa signora su questa bella macchina pulita, e ho detto: signora, però sarebbe vietato non buttare mozzicone. Oh, sarebbe vietato. Giancarlo è stato gentile, insomma, cioè, è stato cauto. E lei ha detto, lei gentilissima, è una signora molto distinta, ha detto: guardi, avevo appena pulito la macchina e non mi andava di buttare, non lo farò più. Ma come? Aveva pulito la macchina e buttava la cicca fuori, non è possibile. Però l'ha detto veramente in maniera molto gentile. Però devo aggiungere, inquinava gentilmente. Devo aggiungere che in realtà questa legge che vale dal 2 febbraio, se non sbaglio, vieta anche di fumare mentre si guida. Per questioni di sicurezza. Quindi con i minori. Credo che sia. Non ho letto la normativa. Che sia una questione di distrazione, non una questione di minori. Ah, ok, non lo sapevo. Quindi Giancarlo avresti potuto fare due contravvenzioni anziché una. Ma quindi la signora si è scusata, e no, quindi diciamo tu con la gentilezza sei riuscita a ottenere una piccola redenzione. Ma non lo so, però cioè, penso che effettivamente mi sembrava anche, come dire, un po' colta sul fatto, era un po' imbarazzata, no? Ecco, tutto qua. Magari no, ho pensato, magari se uno lo dice all'altro che non lo sa, oppure fa una legge, sa un po', no? Così facciamo noi facciamo quello che gli altri ci permettono di fare. Facciamo girare le informazioni e quando possibile magari si può anche censurare in maniera gentile un comportamento come questo. Tra l'altro, grazie Giancarlo, devo dire che la giustificazione una signora non è male, avevo appena pulito la macchina, ma come ti sta a cuore la pulizia della tua macchina e non te ne frega un tubo della pulizia della tua città. Però è un classico, perché chiaramente. Vabbè, insomma, 800 24 00 24, abbiamo inaugurato con Giancarlo i vostri racconti su come è andata questa prima settimana di divieto di gettare il mozzicone di sigaretta per strada. Traffico. Progetto Fuoco, Fiera di Verona, 24-28 febbraio, progettofuoco.it. Vi presenta Si può fare. Si può fare. Cronache da un paese migliore. So I turn myself to face me. I've never caught a glimpse. How the others must see the faker. I'm much too fast to take that test. Change it. Turn and face the strain. Change it. Don't wanna be a richer man. Change it. Turn and face the strain. Change it. It's gonna have to. to be a different man. Time may change me, but I can't trace time. Ooh, yeah. I watch the ripples change the sides, but never leave the stream of warm and permanent sand. So the days float through my eyes, but still the days seem the same. And these children that you spit on as they try to change their worlds are immune to your consultations. They're quite aware of what they're going through. Allora, hanno vissuto fuori sei mesi senza quasi mai utilizzare il denaro, invece utilizzando gli strumenti della sharing economy e del baratto, hanno girato un documentario di questi loro sei mesi e li hanno notati quelli della piattaforma MovieDeo, no? La piattaforma di fruizione del cinema, che gli ha dato una mano a produrre e a promuovere questo documentario, che adesso si trova in 30 sale Unlearning, diciamo che è il nostro modo di avvicinarci alla notte degli Oscar, presentando un documentario che ci sembra molto interessante. Ecco noi l'autore, il produttore, il protagonista, Lucio Basadonne. Buongiorno Lucio. Buongiorno, sì, sono io, eccomi qua. Eccolo buongiorno. Qua, eccolo qua, scogliante, vivo e vegeto e lotta insieme a noi. Lucio, io ho fatto questa breve sintesi di questo vostro viaggio che poi è diventato un documentario. Intanto perché un titolo come questo, Unlearning? Unlearning era il nostro motto, cioè disimparare quello che era la nostra vita quotidiana di famiglia di città, che si sveglia un po' prima di quest'ora qua, ognuno va per la sua strada, uno lavoro, uno all'altro, la bambina è a scuola, per poi ritrovarsi dopo i vari giri amministrativi, spese eccetera, a casa, decidere cosa fare il giorno dopo e via. Questa, uscire da questo iter di famiglia, disimpararlo, vivendo con famiglie che fanno cose diverse dalla nostra, quindi che so, con un circo, con un ecovillaggio, con la famiglia che vive in una comune, con una famiglia che non manda i bambini a scuola, tutti esempi di famiglia diverse. Noi ma noi ci chiediamo come mai avete scelto una parola inglese, perché Alessio ha una sua giustissima battaglia contro l'inutilità di certe parole inglesi usate. Scusami Lucio, ma io ho questa fissazione che dobbiamo farci. Principalmente perché il programma, perché il film era nato come, cioè prima c'è stato un disagio nostro di famiglia di fare questa, sì, di fare questo viaggio, poi è nato il film, e siccome anche questo è stato fatto con il raccolta dal basso, per non usare crowdfunding, se no mi accoltellate. Ecco, bravo, vedi. E questa era stata fatta internazionalmente, perché il viaggio doveva essere inizialmente internazionale, no? Malta, sì, l'ecovillaggio doveva essere in Inghilterra, perché voi siete stati anche in Inghilterra per un periodo. Sì, ho prima, visto il trailer. Quando abbiamo fatto questo esperimento prima di partire. Però cosa è successo? Che in realtà poi il viaggio è stato in Italia, perché la prima tappa è saltata per motivi di chi ci doveva ospitare. Conta che noi siamo sempre stati col baratto, quindi andavamo da, che so, con il circo, in cambio montavamo il tendone, tendevamo le bandierine, loro ci davano da mangiare e da dormire, nell'ecovillaggio zappavamo, pulivamo le stalle, quindi abbiamo sempre fatto scambi per non spendere soldi. Quindi insomma, unlearning perché volevate mantenere uno sguardo internazionale, anche se poi l'unica tappa internazionale è saltata. Noi raccontiamo anche... No, dovevano essere tutte internazionali. Tutte internazionali. Discorso dell'italianità, mi sono poi perso. Il discorso è stato che in realtà abbiamo trovato poi tutto in Italia, quindi quello che noi cercavamo all'estero, pensando che in Italia non ci fosse nulla, sì, perché l'Italia ormai abbiamo trovato in Italia, quindi il co-housing l'abbiamo trovato a Fidenza, l'ecovillaggio in Sicilia. Tra l'altro, se posso dire, esatto, io ho visto il film perché l'ho visto a Taranto, ero in giuria al festival del documentario dedicato a Marcellino De Baggis, quindi l'ho visto anche più di una volta, e la cosa molto bella è proprio che si svolge in Italia, perché uno si immagina di andare a cercare delle realtà chissà dove, invece in Italia ci sono un sacco di realtà, di scuole alternative, di altri sistemi. E infatti è molto bello il vostro film, perché parte, se non ricordo male, anche proprio dal concetto di dire: ma noi dobbiamo mandare a scuola la nostra figlia, dove la mandiamo? Quindi guardiamoci intorno, perché forse non è vero che l'unico modo possibile è di iscriverla nella scuola sotto casa, che è, giustamente è la strada che la maggior parte delle persone sceglie, anche per comodità, e ci mancherebbe. Quindi voi fate un interessantissimo giro, come per dire: ma forse io posso decidere di educare mia figlia in un altro modo, intanto vado a vedere, vado a scoprirlo. Ma non solo, cioè, diciamo che ogni posto è un modello di non delega, quindi c'è sia il discorso della scuola, poi c'è il discorso del cibo, quindi non è che devo solamente comprare dal supermercato, oppure non è che devo per forza trovare qualcuno che mi dà un lavoro, il circo, non è che devo per forza pagare le bollette, il co-housing indipendente dal punto di vista economico. Ogni posto, quando poi abbiamo montato il film, è un modello di non delega, di una famiglia che si impegna a dire: ma forse posso fare anche in un altro modo, il parto, la medicalizzazione. Ogni posto è un assaggio di qualche minuto di una cosa diversa, lungo trailer. Noi spesso, anche noi, proviamo a raccontare un po' questa Italia che cambia. L'abbiamo fatto per esempio con le storie di Daniel Tarozzi, del suo sito Italia che cambia, che ha scritto anche un libro, un viaggio, esatto, e siamo molto aperti e affascinati da questa realtà. Però ti voglio chiedere: vi sentite più dei pionieri di un nuovo modo di vivere che avanza, oppure testimoni di un passato che ritorna? Perché a volte è anche questo che ci si domanda, no? Il ritorno alla campagna, il ritorno all'autosufficienza, sempre questa parola, il ritorno. Sì, però è un ritorno molto più interessante, trovo, perché c'è una scelta, no, nel tornare alla campagna. Mio nonno non ha scelto di fare contadino, mio nonno si è trovato lì e non aveva alternative. Noi invece siamo molto fortunati, perché abbiamo molto più risorse economiche in questo momento, che dobbiamo usare in maniera diversa. Abbiamo più internet, cioè se non abbiamo più scuse, cioè se vogliamo fare un orto in permacultura, cerchiamo su internet e lo troviamo. Quindi è un ritorno molto, molto più cosciente e molto più interessante rispetto a prima. Qual è l'esperienza? Sì, comunque il testimone di un ritorno, di un passato che ritorna, sì, in maniera più interessante, no? L'esperienza più originale, più strana, che ti è rimasta più in testa, più addosso, che c'è in questo documentario On Learning, che si potrà vedere, fra l'altro, poi dove? A Taranto martedì. Se andate su disimparare.it, perché abbiamo fatto anche la pagina italiana. Bravi, molto bene, molto bene. O OneLearning o OneLearning.it, c'è tutte le date che continuano a cambiare. Stasera siamo a Sarzana e domani siamo a Imperia, poi lunedì il film è a Taranto, a Roma, ogni giorno è da qualche parte. Esperienza per me gli elfi, il villaggio degli elfi, che è un posto la cui particolarità è che non è che lo scambio loro ti richiedono 4 ore al giorno, ad esempio, ma sei libero, diciamo, di contribuire come ritieni più opportuno alla crescita della comunità, no? Quindi non hai un capo da cui dire chi è il capo, cosa devo fare, ma devi prendere coscienza del posto e di quello che tu puoi dare, e che è una cosa che ci manca molto, quello di sedersi, guardare intorno e capire che cosa fare. Ma sono tanti gli elfi oggi in Italia? Quanti sono? Sì, soprattutto in valle sono, non so dirti, però sicuramente fra i 500 e i 1000. Se posso dire una cosa molto bella di questo film, per chi ci sta ascoltando, è che c'è sempre comunque il dubbio, cioè Lucio e sua moglie e la sua figlia, la cosa più bella è proprio questo, che si guardano intorno, non sono dei militanti che ci vogliono convincere che va benissimo vivendo mangiando delle bacche, cioè si fanno anche i dubbi, dicono sì, ho capito, però poi il telefono, come faccio a fare questa cosa? E questo è molto bello, cioè vieni accompagnato in un viaggio con i tuoi dubbi che ognuno di noi ha. Tutto questo e molto di più. Molto. Tutto questo e molto di più. Learning. Dobbiamo chiudere. Grazie Lucio. Buona giornata. Grazie Lucio. Ciao. Ciao, grazie. Abbiamo esaurito il tempo. C'è il giornale radio. Vi aspettiamo, cari ascoltatori, subito dopo anche con i vostri racconti all'800 24 00 24. Una settimana di divieti contro le cicche di sigaretta per strada. Si può fare. Cronache da un paese migliore. All alone in the snow, no Questa è Energy Song di Javier Rudd. Tale Javier Rudd che io non conoscevo, ma abbiamo scelto questa canzone per introdurre Rossano Ercolini. Ciao Rossano. Buongiorno. Buongiorno, un grande buongiorno. Abbraccio. Possiamo definirti a questo punto della nostra conoscenza leader del movimento Rifiuti Zero? Uno dei leader. Voglio. Vabbè. Per fortuna siamo in numero crescente. Siete partiti tanti anni fa. Quanti anni fa tu hai iniziato dai banchi della scuola elementare nella quale facevi il maestro a occuparti di questa cosa, Rossano? Ma diciamo con questa intensità nella fine del 1995, però già dal 1976 avevo cominciato a occuparmi di rifiuti, perché nella mia frazione nel comune di Capannori volevano realizzare una discarica, e allora gli omini, come li chiamo io, del mio paese, allora facevo il liceo scientifico, mi dissero: tu sai parlare, Rossano, vieni stasera, facciamo un'assemblea popolare. Quindi è partito di lì. Questo è il 76. Poi giusto per dire, perché pensano che questi non vogliono realizzare discariche, non vogliono inceneritori, non vogliono nulla, ma i rifiuti dove li mettiamo? A Capannori oggi è una città, non dico specchiata, dove non c'è, però siamo arrivati a dei livelli di raccolta differenziata altissimi, è un modello, no? Giusto per dire, vogliamo ricordare. La raccolta differenziata è oltre l'80%, però io amo sempre dire il risultato più importante è avere ridotto i rifiuti rispetto al 2004 di ben il 40%, quindi secondo me quella lì la notizia più importante. Quindi non solo differenziare, ma ridurre proprio il flusso. Soprattutto il flusso. Ridurre. Posso dire che ho paurissima ad andare a Capannori, perché ho la sensazione che se mi cade uno scontrino per terra si voltano in 100 e mi dicono: ehi, che cosa stai facendo? Senti, diciamo che sì. C'è una certa sensibilità, poi meno male. Rossano, com'è andata la prima settimana? Ti è capitato di vedere qualcuno per strada che buttava il mozzicone, sigaretta, e il vigile fare la multa? Oppure non sostanzialmente? No, io forse perché non sono un fumatore non ho forse l'istinto, però devo dire no, non mi è capitato. Ieri sera ho avuto modo di parlarne anche in un'assemblea a Tortona e come dicevamo l'altra volta nell'ultima trasmissione, è una buona scusa ulteriore per smettere di fumare. Ecco, che facciamo è la così, cosa più importante. Tagliamo direttamente la testa al toro. Anche perché le multe forse non sono un buon modo, uno deve smettere di fumare e basta, piuttosto che prendere 300 euro di multa se butta per terra uno scontrino o una cicca di sigaretta. Va bene, comunque aspettiamo, dobbiamo progredire. Aspettiamo gli interventi degli ascoltatori all'800 24 00 24, se invece hanno degli episodi da raccontare su questa questione. Invece con te, Rossano, vogliamo affrontare rapidamente tre cose. Una buona notizia che viene dalla Francia, però ahimè, ma insomma è una... Sono comunque cugini, sono vicini e possiamo farlo anche noi. E due notizie interlocutorie. Comincio dalla prima notizia interlocutoria, che è questa. Smog: il Parlamento europeo raddoppia i limiti di emissione per le automobili. Succede che i limiti di ossido di azoto sono stati raddoppiati, lo ha deciso il Parlamento europeo, ha dato il via libera alle nuove soglie in condizioni di guida reale, rigettando la richiesta di riforme più radicali successive allo scandalo Volkswagen. Succede che dopo il Dieselgate c'erano due strade: costringere le case automobilistiche a mettere a posto queste centraline, oppure dire sostanzialmente queste emissioni sono legali e alzare i limiti. È stata scelta questa seconda strada. Come giudicare questa scelta, Rossano? Ma io da cittadino comune rimango, come si suol dire, basito. Di solito si dice che sono questi interventi all'italiana, no? Come esatto. Si diceva per la trazzina nell'acqua. Invece stavolta all'europea, però. Questo ma anche un po' alla tedesca, se possiamo dire. Alla franco-tedesca, soprattutto tedesca, secondo me hanno anche sotto minaccia l'industria automobilistica francese. Come al solito l'Europa purtroppo rischia di essere troppo franco-tedesca, e quando ai tedeschi qualcosa non va sul piano industriale bene, commercialmente bene, allora anche noi Certo, insomma, è davvero uno scacco, perché noi in Italia subiamo queste messe al bando dei caminetti, per esempio nella mia provincia, nel comune di Lucca, nel comune di Capannori non si possono accendere i caminetti, e poi ci troviamo il Parlamento europeo che opera una sorta di deregulation su alcune emissioni. Perché non si possono accendere i caminetti per inquinamento? Eh sì, perché noi abbiamo il problema già i primi, come a Milano, insomma, già i primi giorni di gennaio, per metà mese le polveri hanno sforato, quindi ah, certo. Noi abbiamo il maggior numero di morti premature in Europa, su 400.000 morti per inquinamento da polveri, noi ce ne abbiamo 81.000. E purtroppo da anni non riusciamo a far niente che sia strutturato. Rossano, qualcuno dice che questa decisione dell'Europarlamento viene fatta per dare il tempo alle case automobilistiche di aggiornarsi, per evitare che sostanzialmente debbano rimanere invenduti forse milioni di modelli di autovetture che sono sostanzialmente inquinanti, e a questo punto non ci si può far niente. È una giustificazione che in qualche modo ti convince o continua a restare della tua opinione? Lo dico da cittadino comune, più diciamo che da, tra virgolette, esperto, quale mi ritengo per la gestione dei materiali di scarto. Da cittadino comune non convince assolutamente, qualsiasi siano i motivi, prima bisognerebbe in ogni caso chiedere scusa, perché non è logico di fronte Sì, è stato chiesto scusa, la Volkswagen ha detto scusa, poi però quando si passa diciamo alle vie europeo, di fatto vengono legalizzati quei livelli di scarto. Le istituzioni europee, insomma, sono qualcosa di più e di diverso dalla, certo, Volkswagen. Io posso capire anche la Volkswagen, che lavora per il proprio profitto, dopodiché il Parlamento europeo che impone regolamentazioni per tanti aspetti anche giustamente rigide e strette, questa volta si comporta come veniva attribuito all'Italia, all'italiana. Questo è inaccettabile, tanto più che noi siamo alle prese con dei problemi serissimi che riguardano tutta l'Europa, perché cioè, si muore. Poi i costi pubblici, la sanità, sono quantificabili ormai i costi sanitari a livello di spesa pubblica. E la gestione Juncker, anche qui lo dico sommessamente da cittadino, non mi convince. Mi sembra che si stia tornando un po' indietro sulla gestione ambientale, sulla sostenibilità ambientale. Ovviamente non ci dobbiamo essere positivi, cerchiamo di influenzare per quello che è possibile l'opinione pubblica. Credo che non ci sia alternativa al miglioramento ambientale. Un'altra questione che riguarda il miglioramento ambientale è quella che monitoriamo insieme a te degli inceneritori, perché il governo ne chiedeva 12, le regioni alcune si rifiutavano quasi tutte, c'è stata una conferenza Stato-Regioni, ti chiediamo di aiutarci a monitorare questa questione, di parlarne tra un attimo dopo il traffico, e poi affronteremo anche, per ritirarci sul morale, la buona notizia che viene dalla Francia, l'anticipo subito è questa: il governo prevede di inaugurare 1.000 chilometri di strade ricoperte da pannelli fotovoltaici, quindi una grande notizia, tra poco dopo il traffico. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Allora, eccoci qua di nuovo con Rossano Ercolini sulla questione degli inceneritori. Anche questa ci sta molto a cuore. Noi sappiamo, insomma, seguiamo le tue vicende, sappiamo che in Italia ci sono delle grandi eccellenze, comuni come Capannori che differenziano l'80% dei rifiuti, Milano, altri comuni che ci stanno dando molto dentro, si diminuisce anche la quantità di rifiuti, grandi eccellenze. Poi ci sono altre zone d'Italia, altre città dove invece si continuano a riempire discariche, addirittura non ci sono più nemmeno le discariche, e i rifiuti bisogna esportarli o in altre regioni o addirittura all'estero, come succedeva per Napoli fino a un certo punto. In questa situazione schizofrenica, Rossano, come giudichi la strada che il governo sta intraprendendo sulla questione degli inceneritori? Qui io vi faccio un pochino, posso dire, in modo autoironico, un po' aggressivo, perché il governo sta andando nella direzione opposta di quella da perseguire. Che succede? È un attacco del governo, direi, perché nel momento che Ercolini, sempre ipercorretto, ha detto qui forse devo prendere una posizione un po' di petto sugli inceneritori, è stata incenerita la linea. C'è, sì, eccolo qua. No, è caduta perché Rossano credo che sia in treno, sempre in movimento in giro per l'Italia a fare incontri, a parlare con tutti i comitati di cittadini, eccetera, eccetera. E quindi in questo momento è andata via la linea. Allora, la notizia che chiedevamo a Ercolini di commentare è che c'è stata questa conferenza Stato-Regioni, via libera, semaforo verde la conferenza Stato-Regioni al decreto sugli inceneritori, cioè alle norme dell'articolo 35 Sblocca Italia. Eccolo, è tornato Rossano. Io non so a che punto ero rimasto. Eri rimasto al punto in cui stavi attaccando il governo. Avevi annunciato che saresti stato più aggressivo. E quindi si va nella direzione opposta da quella indicata appunto da quell'eccellenza. Si tratta di capire se bisogna attaccare i vagoni, sono proprio sul treno, i vagoni alla locomotiva che va nella giusta direzione, oppure se attaccarli nella direzione opposta. Bella questa immagine dei vagoni. I vagoni, la locomotiva, chi sarebbero? Le eccellenze? La locomotiva sono le eccellenze, la provincia di Treviso, ovviamente ci mette anche molti comuni come il nostro, della Lucchesia, dell'Empolese Valdelsa, che hanno l'80-85% di raccolta differenziata, dove non si tornerà più indietro, dove c'è un orgoglio, c'è la constatazione che unisce le comunità e fa sentire le comunità più ricche, anche perché dà posti di lavoro nella raccolta porta a porta, nelle piattaforme del riciclo e così via. Andare così come ha tentato e sta tentando di fare il governo è davvero anacronistico. La fortuna è che molte regioni stanno ascoltando i nostri consigli, perché nell'ultima riunione di cui tu ricordavi diciamo l'esito, in realtà le regioni non hanno avallato il decreto del governo. Il governo è uscito sulle agenzie di stampa dicendo è stato un accordo. Sta andando via di nuovo la linea, vediamo se riusciamo a parlare ancora con te, Rossano, vai. Pronto, io mi sento. Ecco, adesso anche noi. E quindi mi spiegavano i tecnici che questa conferenza funziona solo se c'è l'unanimità. Siccome regioni come la Lombardia e la Campania si sono opposte con l'avallo anche di altre regioni, io credo che stiano arrivando al governo anche le pressioni che noi abbiamo organizzato. Rossano, approfitto della pausa che la tua voce ha fatto perché è andata via la linea, ma tu forse ci stai sentendo. Mi stai sentendo mentre ti faccio la domanda? Credo che sarebbe l'opportunità di cominciare a parlare con più energia della legge nazionale che noi abbiamo proposto raccogliendo le firme, chiamata legge rifiuti zero. Invece di parlare di Sblocca Italia, di inceneritori, parliamo di rifiuti zero. È una possibilità che dobbiamo offrire alle nostre città, ai nostri comuni, alle nostre comunità, anche appunto per promuovere il recupero di materiali e promuovere anche lavoro. Rossano, visto che la linea, diciamo, è un po' difficoltosa, ti faccio subito quest'altra domanda che riguarda questa buona notizia. Più che una domanda è uno spunto, ci tiriamo sul morale. La notizia arriva dalla Francia, la Francia che ha approvato un progetto che si chiama What Way, che prevede di inaugurare 1000 chilometri di strade ricoperte da pannelli fotovoltaici, una cosa che sembra, non dico rivoluzionaria, ma insomma, perché noi in Italia siamo sempre lì che navighiamo un po' al limite, no? Abbiamo dei buoni spunti, poi abbiamo anche dei grossi gap da recuperare, invece ci manca lo spunto, lo scatto in salita. Invece la Francia, a volte dall'estero arriva Francia, Germania, queste notizie che ci fanno dire vedi qual è la direzione, è così? Dunque, la Francia ha molto nucleare, però come succede quando utilizziamo il metodo che io chiamo locale globale, cioè muoverci a livello locale ma guardare a 360 gradi il meglio che sta avvenendo nei diversi paesi, la Francia questa volta ci dà un suggerimento positivo. Ho letto anch'io la notizia sulle riviste, quindi non conosco i dettagli, però sicuramente è un segnale di come l'innovazione può andare a braccetto con la sostenibilità ambientale. In realtà oggi non ci sono limiti tecnologici a immettere nella vita quotidiana sistemi tecnologici che difendono l'ambiente e nello stesso tempo rafforzano anche la funzionalità della pannelli fotovoltaici ovunque, potremmo ricoprire quasi tutte le superfici disponibili, insomma. Questa però è una soluzione intelligente, perché chiaramente capite che una strada è già una striscia, diciamo, di spazio disponibile, sempre perennemente soleggiata, e quindi i vantaggi. Pensate che si può soddisfare il fabbisogno di energia elettrica di 5.000 persone con un solo chilometro, quindi con 1.000 chilometri fate voi i conti. Grazie Rossano, ti salutiamo, ti lasciamo al tuo viaggio in treno e ai tuoi incontri con gli italiani per spiegare rifiuti zero. Ciao! Questa è Si può fare, questo che abbiamo appena ascoltato è Make it in the easy way you know di The Moon. Come sapete, noi stiamo sempre cercando dei si può fare in musica, quindi se voi siete dei musicisti o dei cantanti o anche dei semplici ascoltatori che riconoscete in una canzone il concetto di si può fare, segnalatecela. Questa che abbiamo appena ascoltato è la canzone segnalata da Valentina su Facebook. Voi potete segnalarcelo su Facebook, quindi sul nostro Facebook che si può fare trattino Radio 24, oppure mandandoci una mail a sipuofare@radio24.it, oppure su Twitter sipuofare24, oppure sui nostri account personali di Twitter. Il mio è @CarloGabardini e c'è anche il mio @AleMaurizzi. Cari ascoltatori, 800 24 00 24, vi aspettiamo, anzi vi sentiamo, vi ascoltiamo subito. Cominciamo con Luca che ci chiama da Roma. Buongiorno Luca. Buongiorno. Grazie per avermi ricontattato. Volevo semplicemente raccontarvi un episodio, un piccolo episodio che mi è accaduto ieri, in via 20 settembre a Roma, e riguarda la nuova legge sulle sigarette. E ero in via 20 settembre. E una via, tra l'altro, dove c'è qualche ministero, ora c'è il Ministero dell'Economia? Sì, economia. Bravo, vedi, mi ricordo. Finanze, sì. Sono preparato. Era in via 20 settembre? Io ero lì in macchina, si accosta a me un appunto dei carabinieri e il passeggero che dovrebbe essere un maresciallo, in pratica butta fuori dal finestrino la sigaretta, cioè il mozzicone di sigaretta, certo, acceso ancora. Allora io molto gentilmente dico: scusi, ma sa che c'è una nuova legge che vieta e che multa? Che coraggioso, ha un carabiniere. Giusta faccia tosta, giusto coraggio. Che multa, Luca. E che multa. Lui mi guarda un po' stupito e mi dice: a cost, a A costi, ah, l'ho fatto costare. E a quel punto Luca ha avuto paura, ha detto adesso mi controlla i documenti, cioè lui avrà pure... No, paura no, perché vabbè, io vengo dalle occupazioni delle cavallo del 90 eccetera, quindi voglio dire paura. Vedi che cosa, a te ti fa un baffo un carabiniere proprio. Il carabiniere che dice a costa ti fa un baffo a te, Luca, va bene. E che cosa ti ha fatto? Com'è finita? Mi dice patente e libretto, io gli faccio vedere ovviamente tutto, per fortuna che ho tutto in regola. Regola, non come 25 anni fa, e quindi sei migliorato nel frattempo, Luca, sì? Sì. E tutto a posto, e poi mi fa, e poi quando mi dice ok, va bene, io dico scusi, ma è la sigaretta? Ma la sigaretta, perché io se dovessi fare il Luca mi fa morire, ma non è vera questa storia. Dovrei chiedere al suo collega, sì, che appunto guida, di fare la multa. Certo. Non è vera questa storia, Luca. E lui cosa ha detto? Non è vera questa storia qua, non è vera. Guardi, lasciamo stare, è stato un attimo, ero distratto perché la radio mobile della macchina ci stava comunicando. Ci aveva la scusa. Va bene, colpa della radio. Ci aveva la scusa pronta. Luca, ma questa storia non è vera, inventata, è chiaro, no? Ti giuro che è vera. È inventata per vincere il premio di oggi. Ti giuro che è vera, e del premio, guarda, non mi interessa. No, vabbè. Comunque partecipi perché la storia è molto bella. Vabbè, beh, e poi vi siete salutati con un sorriso, oppure sei rimasto un po' scottato, no, ferito? Con un sorriso, perché io ormai appunto non sono più, sono ormai un cittadino modello, quindi... Va bene, Luca, insomma, c'è un bel salto da occupatore del Leoncavallo, ma quindi stavi a Milano? No, ma non so se vi ricordate, ma nel 92, sì, in quegli anni lì, certo, da tutta Italia si andava a Leoncavallo quando c'erano gli sgomberi. I concerti, i ritrovi. No, gli sgomberi. Ah, si è andato a Leoncavallo, certo, per opporti allo sgombero del Leoncavallo. Sì, nel da 92. Tutta Italia. Sì. Quindi io ero all'università a Pisa, al Macchianera, c'era un centro sociale storico, lì il Macchianera. Allora Luca, può darsi che ci conosciamo, perché io ero a Pisa in quegli anni, il Macchianera lo conosco anch'io, ci sono stati tutti quelli che facevano l'università in quegli anni a Pisa. Grazie, sì, Luca, sì, ma sì, che storia. Grazie mille. Beh, insomma, è diventato nel frattempo un cittadino modello, forse si può dire, tanto che ha fermato la pattuglia dei carabinieri che ha buttato la cicca in terra per strada, avendo il coraggio, è notevole questa di Luca, di ricordarglielo al carabiniere. Bravo. Gabriella da Milano, buongiorno. Ah, buongiorno, grazie per avermi richiamato. Anch'io vorrei dare una piccola testimonianza sulla faccenda dei mozziconi. Prego. Io vado a prendere i bimbi a scuola, ne avevo due l'altro giorno, e mi fermo alla fermata del tram. Ovviamente quelli che fumano tutti i mozziconi per terra quando arriva il tram. E c'è proprio un giovanotto davanti a me, fuma, arriva, sta arrivando il tram e butta il mozzicone. E io dico, vedete bimbi, non l'ho detto a lui, vedete bimbi, adesso chi butta i mozziconi prende la multa, perché ci vogliono 5 anni perché si smaltisca questo rifiuto. E questo signore si volta, ma pacatamente, gentilmente, mi dice, no signora, perché le sigarette io me le faccio da solo, quindi non occorrono 5 anni, è vero. Non aveva i filtri, non aveva. Beh, i filtri. Dipende, se come filtro usa comunque i filtrini che sono, se non sbaglio, in fibra di vetro, ci mette lo stesso numero di anni. Se come filtri invece usa un cartoncino arrotolato come si usava, o almeno mi hanno detto che si usavano per farsi le canne, detto, sì. Effettivamente quello non ha nessun problema di biodegradabilità perché è un pezzettino di carta. Ma lei ha avuto modo di controllare poi la cicca se in effetti era senza filtro? Neanche spenta, l'avevamo buttata in mezzo alle rotaie, sì, proprio... Ah, quindi non si poteva controllare. Se posso spezzare una lancia, devo dire che tra tutti i momenti in cui bisogna buttare una cicca di sigaretta non è il più facile, perché arriva il tram, uno fa l'ultimo tiro e deve andare a trovare una spazzatura, e può essere che sia così lontana per cui uno perde il tram. Ciò non giustifica ovviamente il buttare la cicca di sigaretta, però volevo semplicemente sottolineare che è uno dei momenti più difficili in cui trovare una spazzaturina. Grazie Gabriella, buona giornata. 800 24 00 24, aspettiamo degli altri vostri racconti, ma insomma abbiamo già ricevuto delle non male come storie questa mattina sui mozziconi di sigarette, non male per ora, vai. si può fare. Cronache da un paese migliore. Italia, sì, Italia no, Italia niamme, se famo lo spaghi, Italia so, Italia rot, la terra dei cacchi, una pizza in compagnia. Siamo sempre lì, l'Italia dei divieti, l'Italia delle truffe, la terra dei cacchi, perché anche questa settimana abbiamo delle notizie che sono: falso olio made in Italy, sequestri in Puglia, Calabria e Umbria, bloccate 2000 tonnellate. Poi c'è stato anche un sequestro di olive colorate, perché un conto è l'olio falso made in Italy, un conto sono le olive colorate, che fanno proprio male alla salute, perché un conto è il falso made in Italy, cioè è una truffa sul fatto che sia olio italiano e che in realtà è fatto da un'altra parte, allora, però l'altra questione era più grave, le olive colorate che proprio fanno male alla salute. E allora, nella settimana in cui il collegato ambientale che è entrato in vigore, lo stesso che prevede le multe fino a 300 euro per chi butta le cicche per strada, dà vita a un nuovo marchio Green Made in Italy per promuovere la sostenibilità ambientale, e noi rischiamo di non capirci più nulla, anche se ci appelliamo alle parole dolci di Maria Letizia Gardoni, delegato nazionale col Diretti Giovani Impresa. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Parole dolci perché Maria Letizia è una giovane ragazza che ha deciso di fare questo nella vita, cioè di fare l'agricoltura, di lavorare e nei campi, una scelta controtendenza per un giovane d'oggi, e che è anche delegato nazionale della Coldiretti. Maria Letizia, noi ci siamo già sentiti altre volte, ci avevi raccontato la tua storia, sì. Come hai iniziato tu comprando la terra, perché spesso si dice, no, che è facile fare i contadini per chi ha eredita dalla famiglia, tu invece la terra te la sei comprata, se non ricordo. Sì, ho fatto un bel investimento, ho acceso un mutuo importante a 19 anni che finirò di pagare quando ne avrò 45, quindi quindi non è impossibile. Ecco, vedi, questo per mettere subito le carte in chiaro. 26 anni di mutuo. Ma Letizia ha a tutti i titoli per parlare di questi argomenti. Allora, questo marchio Green Made in Italy, sì, è un'opportunità o è un handicap, magari perché essendo che si aderisce su base volontaria, non è un obbligo, ma rischia di trasformarsi magari per qualche azienda in un peso in più in un commercio, in un mercato che invece vede le truffe dietro l'angolo, sempre in agguato? Guardi, io credo proprio di no. Al contrario, credo che sia un marchio che possa aiutarci soprattutto nel comunicare, no? L'impronta ambientale dei nostri prodotti, i prodotti agroalimentari italiani, che sono da sempre riconosciuti come prodotti di altissima qualità e di grande sicurezza alimentare. Quindi può aiutarci, io credo, anche in maniera competitiva, no? In un sistema produttivo italiano che appunto che è fatto sia di qualità ambientale ma anche di sostenibilità sociale. E tra l'altro è un marchio che va benissimo, diciamo, a valorizzare ancora di più l'impronta o comunque l'entità delle imprese green italiane, che sono tante, che sono circa 120.000 e che tra l'altro guidano, diciamo, un primato a livello europeo, perché le imprese italiane, soprattutto quelle agricole, quelle agroalimentari, quindi quelle agricole, hanno un'attenzione maggiore per quanto riguarda la sostenibilità ambientale, infatti sono quelle che producono meno rifiuti e meno gas serra a livello europeo, per cui secondo me è solo rappresenta un'etichetta in più che appunto può aiutarci a presentarci meglio nel panorama internazionale. Ma il fatto che si aderisca su base volontaria e che non sia uno standard obbligatorio non è una cosa che limita un po' la forza di questa cosa? Ma probabilmente questo può essere, diciamo, solo un passaggio iniziale. Per cui c'è oggi la possibilità di aderire a questo marchio, ovvio, se può assumere, diciamo, anche dal punto di vista legislativo, diciamo, un'importanza maggiore, perché no? Io non lo vedo, ecco, come una sfumatura o come un inciampo, un intralcio negativo per le imprese, anzi secondo me è una possibilità, una buona possibilità in più. Ma io quello che mi chiedo, funzionano tutti questi marchi? Perché lo sentiamo spesso che c'è il nuovo marchio, il Made in Italy, l'olio fatto proprio lì, cioè quello che mi chiedo, punto uno, è se il consumatore normale o quello come me, quindi anche un po' stupido, alla fine si affida a questi marchi, si fida di questi marchi, li va a cercare, li legge, si informa? Guardi, secondo me sì, nel senso che c'è ormai un'evoluzione che è costante, che è continua, che riguarda la sensibilità del consumatore. Cioè io anche da produttrice mi sto rendendo conto di quanto oggi le persone, quindi il consumatore finale, c'è sempre di più alla ricerca di un prodotto che richiami un certo tipo di qualità. E oggi le certificazioni, come può essere la certificazione DOP, di fatto garantisce una qualità del prodotto, quindi un prodotto che viene coltivato in un determinato modo, col 100% del prodotto italiano, e oggi le persone sono attente a questo tipo di appunto di comunicazione, sono attente a questi tipi di marchi, e anche se a volte può registrare, diciamo, un costo aggiuntivo, nonostante la crisi anche economica che le famiglie oggi stanno vivendo, scelgono di investire, quindi di spendere un po' di più, ma per un prodotto che è di qualità. No, questo dici, è che il problema è forse di capire quali sono i marchi veri, quali sono poi i marchi, o appunto capire quelli su base volontaria, o quelli anche proprio farlocchi, perché c'è qualcuno che ci mette su una simpatica bandiera italiana che non significa niente. Purtroppo c'è un problema di frode alimentare che esiste e che stiamo cercando di contrastare. Ad esempio anche Coldiretti ha fondato un osservatorio sull'agromafia, tra l'altro condotto da uno dei personaggi più importanti della nostra Repubblica, che è Giancarlo Caselli, con il quale stiamo di fatto denunciando che esistono appunto delle persone poco responsabili, oppure chiamiamoli criminali, perché di fatto criminali sono, che frodano appunto sull'italianità del prodotto, perché certo, nel nostro paese arrivano, e anche il caso dell'olio che hai citato tu all'inizio trasmissione, sì, è un caso emblematico di come oggi nel nostro paese arriva tanto prodotto estero, quindi in questo caso dell'olio greco o ellenico o spagnolo, sì, che entra in Italia in realtà come prodotto marchiato medico. È questo infatti che ti volevo chiedere. Assolutamente nulla. Un produttore oggi, un agricoltore, uno come te, un produttore di olio per esempio o di altri prodotti del Made in Italy, è tutelato nel momento in cui rispetta tutte le norme ambientali, anzi cerca di fare magari un'agricoltura di qualità da tanti punti di vista, è tutelato, oppure le norme che ci sono, diciamo la scarsa anche trasparenza sull'etichettatura, non danno una sufficiente tutela e quindi rischiano di esporre questi produttori a una concorrenza sleale poi? Allora, sicuramente c'è la necessità di una normativa, soprattutto europea, da rivedere, quindi la necessità di una normativa europea più chiara che possa mettere, che possa appunto tutelare sia il produttore dal punto di vista proprio di atto di produzione agricola, sia il consumatore dal punto di vista proprio di diritto di sapere che cosa effettivamente va a acquistare e va a portare in tavola. Ci sono però ad esempio il marchio DOP, IGP, che sono marchi che oggi non sono, diciamo, sottoposti a frode. Quello che è sottoposto a frode è il Made in Italy, per cui il marchio Made in Italy, per cui oggi ci troviamo sugli scaffali un olio che non è italiano, ma che può essere italiano, o tunisino, esatto, o greco, che però viene molto spesso venduto anche sotto marchi italiani, che italiani però non sono più, che sono ceduti all'estero e che richiamano i colori italiani, per cui la bandiera italiana, richiamano la qualità italiana, quando in realtà l'italiano è di sicurezza alimentare soprattutto non ha nulla. Tu facevi riferimento alle olive, no? Sì, quindi hai fatto la distinzione tra olio e oliva, ma in realtà c'è un problema di sicurezza alimentare anche nell'olio, quindi nell'oliva trasformata. Perché sappiamo che questi oli importati molto spesso sono deodorati, sono decolorati, per cui sono oli che subiscono dei processi chimici che poi vanno ad infangare appunto la sicurezza alimentare del prodotto. Insomma, c'è ancora un po' di strada da fare sicuramente. Ce n'è molta direzione da fare. Coldiretti sostiene questi passaggi, queste dinamiche, nel senso contrastiamo anzi queste dinamiche delle frodi alimentari da sempre. Abbiamo appunto costituito questo osservatorio sulle agromafie che già ha comunque stimolato appunto i lavori, comunque le attività della repressione antifrode, che ad esempio oggi ha portato ad essere indagate 8 persone per la questione dell'olio d'oliva. Ma è vero, quindi, Maria Letizia, che c'è un problema anche con la siccità in questo momento? È un problema ulteriore, nel senso che ad esempio nel 2015 abbiamo vissuto l'inverno, uno degli inverni più torridi, a gennaio si è registrata una temperatura più alta di 2 gradi rispetto alla media, per cui c'è di fatto in atto un cambiamento, uno stravolgimento delle condizioni ambientali importanti. questo di fatto compromette anche la stessa vitalità o comunque esistenza delle nostre produzioni più tipiche. Già all'interno del nostro territorio nazionale si sta verificando uno spostamento anche dei luoghi di produzione. Se pensiamo che oggi alcune delle produzioni più tipicamente mediterranee, come il pomodoro, oggi si fa in realtà in una realtà come l'Emilia-Romagna, ci fa capire insomma quanti cambiamenti stiamo vivendo e quanti ne viviamo anche sulla nostra pelle come produttori, perché di fatto l'agricoltura è quello che di più risente come settore dei cambiamenti climatici. Quindi da questo punto di vista è necessario sicuramente un nuovo modello di sviluppo, quindi un nuovo modello di produzione e di crescita che sia sempre più attento anche alla gestione delle risorse naturali, perché viviamo in un momento di grande debito ecologico, no? Nei confronti dell'umanità, ma soprattutto è necessario anche un nuovo modello di consumo, per cui anche i consumatori cittadini devono essere sempre più responsabili nelle proprie scelte. Senti come ha preso il via Maria Letizia, adesso piano piano ci sta facendo ci sta aprendo nuovi mondi. Maria Letizia Gardoni, è un piacere ascoltarti, grazie per essere grazie stata con noi. Grazie. Insomma, grazie la strada da fare purtroppo non manca. Accogliamo il nuovo marchio Green Made in Italy con piacere naturalmente, però la domanda che facevi tu, Carlo, aleggia, resta sempre: ma tutti questi marchi poi alla fine servono? La gente li guarda, ci fa caso? Oppure e soprattutto poi, come si fa a capire quali sono quelli veri e quelli che in realtà fanno capo al marketing? Sì, che uno dice vabbè, scrivo viva l'Italia. Progetto Fuoco, Fiera di Verona, 24-28 febbraio, progettofuoco.it vi presenta Si può fare. Cronache da un paese migliore. Con questo simpatico motivetto montanaro, perché insomma avrete capito, noi ci piace percorrere questi sentieri che hanno a che fare con l'ambiente, con la riscoperta, ma insomma non tanto come un ritorno al passato, ma come un modo nuovo per leggere il futuro della campagna, ma anche della montagna. Ecco perché ci ha colpito questo bando della Fondazione Edoardo Garrone, un incubatore di impresa per il rilancio dell'economia appenninica, che è stato appena premiato, da poco premiato, 6 progetti vincitori. Vogliamo conoscere uno di questi progetti di rilancio dell'economia appenninica. Intanto diamo il buongiorno ad Alessandro Garrone. Buongiorno a voi. Buongiorno. Presidente della Fondazione Edoardo Garrone e Anselma Lovens, fondatrice di Boschi Vivi. Buongiorno Anselma. Ciao. Eccoci qua. Allora, Garrone, intanto come vi è venuta, perché questa idea di premiare, di dare un aiuto, di sostenere con questa iniziativa delle imprese che si occupano dell'economia appenninica, una cosa veramente di nicchia, no? Però... Ma noi speriamo che non sia di nicchia. Noi il progetto Appennino è un progetto su cui abbiamo lavorato da tanto tempo e abbiamo detto ma l'Appennino è una risorsa straordinaria del paese, sono 1500 chilometri di territori per varie ragioni abbandonati, ma che hanno un potenziale altissimo di creare lavoro, occupazione di vario genere e di dare una mano anche alla disoccupazione giovanile. Quindi ci siamo, abbiamo creato 2 anni fa questo progetto Restartup, che è un campus residenziale per giovani under 35 che hanno delle idee di impresa appenninica, e noi gli diamo degli strumenti per capire se la loro idea, e questo ci sta bene, si può fare, quindi se è realizzabile, gli facciamo lezioni, gli facciamo sviluppare il loro business plan, e dopo 2 mesi e mezzo di lavoro, se la loro idea è realizzabile, possono partire con l'impresa. Quindi magari magari partono poche imprese, ma poi sono progetti che si possono diffondere lungo tutto il territorio, che è veramente un territorio straordinario. Allora, tra i progetti che avete premiato, a noi ci ha colpito in particolare quello che si chiama appunto Boschi Vivi di Anselma Lovens, che è qua con noi, un'organizzazione no profit che offre servizi cimiteriali e forestali integrati. Esatto. È una scelta, diciamo, originale e coraggiosa, se abbiamo capito bene. Offrite la possibilità di andare a interrare le ceneri del caro estinto in aree boschive. Esatto, e in pratica anche offrire un sistema che permette poi ai cittadini che scelgono di partecipare al progetto di finanziare dei progetti di valorizzazione dei boschi, quindi l'attività cimiteriale copre non solo i costi di gestione della foresta stessa, ma permette anche di investire anche in aree dove non si opera con gli interramenti ma destinate ad altre funzioni. Ma partecipare al progetto significa decidere che quando io muoio le mie ceneri vengano sparse nel bosco? Sì, in pratica l'albero viene scelto in vita. Io posso scegliere sotto quale albero voglio le mie ceneri? Esatto, perché c'è un servizio di customer service che praticamente prendi appuntamento e una guida, dopo averti spiegato lì proprio nel bosco tutti i particolari del progetto, poi ti può aiutare a scegliere l'albero che fa per te. Cioè uno fa proprio una gita dove dice ecco, guarda tutti gli alberi e sceglie sotto quale albero vuole mettere le proprie ceneri. Sì. Sono molte le persone, Anselma, che fanno questa scelta in Italia oggi. Parlo della possibilità di essere cremati, ma anche poi di scegliere, quindi di avere le proprie ceneri interrate in qualche bosco. Beh sì, diciamo che la scelta della cremazione, della dispersione delle ceneri è in aumento, perché comunque è un'operazione che lascia libertà anche di scelta di dove passare la vita oltre la morte, insomma. È una soluzione salva spazio, se mi permette una brutta battuta. Ecco. Ma in pratica quasi 85.000 persone all'anno ormai in Italia scelgono questo, quindi in effetti non credo che sia solamente per salva spazio, però sicuramente come tradizionalmente concepito il cimitero è causa di consumo di suolo, di impermeabilità. E poi trovo molto rasserenante questa possibilità in effetti di scegliersi l'albero e di sapere che le proprie ceneri, i propri resti comunque saranno legati in questo modo così stretta alla natura, a un bosco, un ambiente che di per sé offre anche una cura dell'anima. Grazie, è Anselma. È una nuova scenografia commemorativa anche. Molto giusto. Grazie, molto Anselma giusto. Grazie mille. Grazie anche ad Alessandro Garrone, presidente della Fondazione Edoardo Garrone, per questo bando di rilancio dell'economia appenninica. E in qualche modo parleremo anche domani di montagna, perché ci sono delle notizie che non anticipo giustamente, perché facciamo anche il trailer della trasmissione di domani. Perfetto, dobbiamo dare il premio. Siamo in chiusura. Beh, insomma, a questo punto diciamo che siamo d'accordo. Siamo tutti d'accordo, assolutamente. Il premio va a Luca da Roma che ha fermato i carabinieri. Esatto, per che dirgli buttavano la cicca. Ed è stato fermato a sua volta dagli stessi carabinieri, e lui però ha insistito dicendo: però mi scusi, ma come mai quella cicca lì? Sai, quindi sembrava vince. La gag dei soliti idioti, ma lo scontrino, ti ricordi? Ma lo scontrino andava avanti così per un po'. Ma la cicca in terra? Vabbè. Bravo Luca, ti porti a casa i biglietti del catalogo, la mostra di Matisse a Torino, organizzata dal gruppo 24 ore. Bene, siamo davvero in chiusura, ci risentiamo domani 8:30-10. Un ringraziamento ad Andrea Piana, che ha scritto insieme a noi il programma, così come Claudia Schiattone, assistente, autrice, redattrice, tutto. Quasi tutto per questo programma. Peter Bescapè in regia. Grazie a tutti, ci risentiamo domani. Ciao da Alessio Maurizio. E da Carlo Gabardini, buon sabato. E a chi ci ascolta in podcast.